trasmettiamo Proxy Bar. Proxy Bar. Proxy Bar. L'after hour sulle applicazioni e sui contenuti della rete che migliorano la qualità della vita. In studio Antonio Pavolini e Daniela Apollonio. Solo su Radio Imago. Buonasera a tutti da Antonio Pavolini, benvenuti a Proxy Bar, buonasera a Daniela Apolloni. Buonasera Antonio, buonasera popolo della rete. Come va? Sei pronta per una nuova entusiasmante stagione su Radio Imago? Sì. Ma tu non hai mai staccato in realtà, neanche durante non le vacanze. Non lo raccontiamo, dai, lasciamo l'illusione che anche noi abbiamo avuto delle vacanze meravigliose, come te. Va bene, dunque, per non avere un atterraggio troppo brusco nella realtà di questa stagione 2007-2008, oggi trattiamo forse un argomento leggero, poco tecnologico. È una puntata dove parliamo soprattutto di un contenuto che non potevamo che trovare su internet, un contenuto di riflusso. Sapete che su internet si ritrovano delle comunità di nostalgici. Oggi parliamo degli anni 70 e di tutta la grande quantità di contenuti sugli anni 70, al confine con il vero e proprio feticismo, in certi casi, della fruizione di questi contenuti, che si possono trovare solo sulla rete. Io direi... Sì, scusa Daniela. Nulla. Hai fatto uno sguardo avvicinato. Vabbè, volevo dire qualcosa, ma ascoltiamo il primo contributo? Va bene, d'accordo. Viva, viva il goleador, era questo che diceva. Guarda, mi dispiace, sei completamente fuori strada. No, sono certa, il goleador. Allora, dopo viva viva, questo coretto emette un suono che, sentito alla rovescia, è un messaggio per gli alieni. Sì, gli alieni, dai. Qualcuno diceva per una setta satanica, in realtà è un messaggio per gli alieni. Al contrario, il goleador. Sembra il goleador, ma non è. Adesso, io avrei voluto avere in studio l'autore del sito www.pagine70.com, Giuseppe Grimani, che in qualche modo ha trovato la soluzione a questo enigma, e non è nessuna delle due che abbiamo indicato io e te, non è né il goleador né il messaggio per gli alieni. Purtroppo oggi Giuseppe non può, per un problema veramente di forza maggiore, non può intervenire in trasmissione, e quindi rimarremo col mistero. Vabbè, no, in realtà mi sono documentato, se vuoi te lo spiego. Dai, cosa dice dopo viva viva. Dice viva viva. Dopo viva viva, l'autore del brano, questo grande musicista, anche se non molto conosciuto, Oscar Prudente, musicista degli anni 70, ha inserito una serie di coretti uno sopra l'altro, proprio senza nessun significato, quindi anche un po' deludente forse la spiegazione. E questa è una delle cose che vengono svelate nel portale Pagine 70. per dare la sensazione dello stadio, del caos, della condivisione, eccetera. Questo è quello che in qualche modo viene fuori. Ma pensa, Daniela, c'è della gente che ha perso il sonno per capire cosa dice la sigla di Domenica Sprint, che è quello che abbiamo sentito fino adesso, che tutti avranno riconosciuto, dopo Viva Viva. Dopo Viva Viva. E invece però non abbiamo Oscar, scusate, non abbiamo Giuseppe Grimani, dovremmo però avere in collegamento Alberto Farina, che di anni 70 qualcosa ne sa, giusto Alberto? Sono qua, ne so spero meno. Pronto, spero meno. Pronto Alberto? Alberto Farina non ci sente ancora. Io ti sento. Ah, ecco, in lontananza ma ti sento Alberto. Ciao, benvenuto a Proxy Bar. Salve, salve. No, dicevo, io negli anni 70 avevo dai 4 ai 14 anni, quindi ho delle memorie come tutti quanti, ma insomma non credo così approfondite e classificate come l'ospite che manca. Sì. Però... ma anche l'ospite che manca, devi sapere Alberto, anche lui ha più o meno la nostra età, diciamo. Ecco. Non deve sorprendere però questa sua immensa passione per questo periodo, semplicemente perché evidentemente i colori e i sapori che hanno influito sull'infanzia e in parte sull'adolescenza dei trentenni, quarantenni, ci sono rimasti dentro. Ci sono molte teorie secondo cui in realtà non è che siamo appassionati di un periodo in particolare, ma semplicemente del periodo in cui siamo stati felici o dove, per motivi diciamo fisiologici, i ricordi, no, rimangono più cristallizzati. Vale anche per te Alberto? Sì, penso di sì. Io non lo so, mi sono sempre un po' ritenuto più figlio della generazione degli 80 che dei 70, però adesso che ne parliamo in effetti stanno venendomi in mente un sacco di cose che probabilmente forse non ho approfondito per pura superficialità, però mentre tu mi parli degli anni 70 io vedo me stesso che attraverso Corso Trieste per andare a comprare il Corriere dei Piccoli, e questo mi apre proprio tutta una serie di Madeleine non prustiane, ma insomma non meno degne di interesse, e tutto anche un mondo di fumetti che se n'è andato oggettivamente, cioè adesso nostalgia canaglia, d'accordo, però ci sono delle cose che sono oggettivamente cambiate e credo non siano cambiate in meglio, insomma, ecco. Ecco, noi non l'abbiamo detto Alberto, ma tu sei un esperto di, diciamo, di storie per immagini, quindi sia di cinema che di fumetti, soprattutto fumetti di genere, eccetera. Hai scritto sul cinema, hai scritto anche dei libri, mi pare, su John Landis, se non sbaglio. Sì, ho scritto uno su John Landis, ora ne ho scritto uno su un altro John, attivo anche negli anni 70, anche se ha finito di lavorare negli anni 70, John Sturges, sì, che è regista di La Grande Fuga, dei Magnifici Sette, e negli anni 70 in realtà di poca roba, cioè di uno dei tanti film post Clint Eastwood, Ispettore Callaghan, di un paio di film bellici, divertenti e roba del genere. Sì, più di cinema che di fumetti, però i fumetti ovviamente sono un modo di espressione gemello del cinema, no? Sono nati a un anno di distanza l'uno dall'altro, ecco, e sono un po' le due facce dello stesso tipo di modo di raccontare. Una domandina veloce, ma ci sono rimasta male quando hai detto anche in questo campo col passare del tempo c'è stato un peggioramento. Perché dici che nel fumetto quest'arte si è andata a degradare col passare del tempo? Guarda, in realtà è un ragionamento, se vogliamo chiamarlo ragionamento, che è già una parola grossa, che faccio mentre ti parlo, però se vado a vedere cosa c'era in edicola all'epoca e che cosa c'è adesso, quello che noto, ed è una cosa che noto che è successo un po' anche nel cinema, se ne sono andate un po' un certo tipo di produzione, se vogliamo industriale, ma non industriale bassa, un'industriale alta, cioè c'era un'industria del fumetto che produceva molta roba di ottima qualità, magari non opere d'arte, non cose memorabili, però tante cose mediamente buone, mediamente curate. Ho avuto l'impressione veramente che sia nel cinema che nel fumetto ci sia stato un assottigliarsi della produzione, e questo è abbastanza indubitabile, con poche cose magari anche molto buone, però l'industrialità se n'è andata, cioè c'è stato un po' sono sopravvissute alcune cose, nel fumetto è sopravvissuto Bonelli sostanzialmente, parliamo dell'Italia naturalmente. Sì, però forse col passare del tempo c'è stata soltanto una globalizzazione e un'importazione del fumetto straniero che negli anni 70 non c'era, cioè i giapponesi... I giapponesi sono una novità degli anni 80, esatto, senza dubbio. E tutto ciò che viene dopo i giapponesi, dal cartone animato proprio al fumetto... Secondo me deriva soltanto da una maggiore scelta derivante dai contributi stranieri. che abbiamo importato. È una maggiore scelta che ha fatto in un certo senso terra bruciata, perché i giapponesi hanno, insomma, parlando anche con persone che lavoravano nel mondo dell'editoria del fumetto, per un lungo periodo hanno fatto veramente un po' il bello e il cattivo tempo nelle edicole italiane. Va detto che hanno sicuramente portato nuovi gusti, un nuovo modo di raccontare, quindi sicuramente in questo senso c'è stato un arricchimento. Però c'è anche un po' il problema che quando si comincia a importare massicciamente una produzione così larga come quella del Giappone, per esempio, costa molto meno tradurre una cosa che produrla nuova. E allora si tende un pochino così a sedersi sull'importazione, anche quando all'importazione dovrebbe continuare ad affiancarsi una produzione interna. Io davvero adesso, magari davvero nostalgia, però io ricordo che nel Corriere dei Piccoli e nel Corriere dei Ragazzi negli anni 70 c'erano una serie di autori di fumetti che facevano cose molto interessanti, anche così in maniera molto, molto sommaria, sperimentale, inventavano nuove combinazioni. Cioè Alfredo Castelli, per esempio, certo, che adesso da 25 anni, 30 anni fa Martin Mister per Bonelli, e lo fa benissimo, io ho tutta la collezione di Martin Mister, però all'epoca curava serie molto diverse, serie comiche, serie avventurose, aveva molto più modo di sperimentare nel linguaggio del fumetto di quanto non ce l'abbia in una gabbia solida, confortevole, ma anche limitante come quella del Bonelli, che peraltro, insomma, veramente è l'unico che mantiene in piedi in Italia un'industria del fumetto degna di essere chiamata industria, quindi tanto di cappello. Scusa, insomma, Alberto, tu, di prima qualità. Tu parli di Corriere dei Piccoli e Corriere dei Ragazzi, però anche in quegli anni c'erano dei fumetti tipo La raccolta dello Scorpio, L'Intrepido, che non erano certo un bel disegno, ma ne venivano venduti tanti. Dipende, perché sull'Intrepido, mi pare che fosse sull'Intrepido o su Scorpio, apparivano anche i fumetti, c'è stato tutto un periodo di importazione, anche lì però in qualche modo controllata, di fumetti sudamericani, ci disegnava Alberto Breccia, cioè c'erano anche dei signori disegnatori lì, e certo comunque la produzione industriale c'erano degli alti e dei bassi, però allora da una parte Corriere dei Piccoli e Corriere dei Ragazzi, dall'altra il giornalino, quindi le edizioni paoline, quindi una cosa un po' più così... catto comunista, possiamo dirlo. Il comunista c'era molto poco. C'era molto poco, hai ragione. La famosa battuta di Alfredo Castelli era, erano preti, ma dei bravi cristi, cioè comunque lasciavano una... Chiaramente non c'erano storie rivoluzionarie o anticlericali, però comunque c'era una discreta libertà creativa. Ed è un secondo polo, se vogliamo. Poi ci mettiamo l'Intrepido, Scorpio e tutti quei fumetti là, diciamo più bassamente popolari, ma adesso dicendo bassamente sembra dare una valutazione. Cioè comunque c'è un'industria molto più variegata, mi sembra. Però ci sono delle certezze che continuano a essere presenti nelle nostre edicole anche dopo 40 anni. Parlo di Topolino, parlo di Diabolic... Diabolic è uno dei grandi vecchi che sopravvive. Topolino, non so se parlerei di sopravvivenza, perché non so se l'hai letto di recente. No, ci sono, mi manca. Insomma, Topolino sarebbe meglio non parlarne, perché no, vabbè, non è vero. Però diciamo che del ruolo di Disney nella cultura dei paesi occidentali, per questo che non vuoi parlare. Sì, no, ma sai cosa possiamo dire di Topolino? Topolino negli anni 70 produceva in Italia una quantità di storie, anche lì industrialmente enorme, ma con una buona qualità media come testi, come disegni. Cioè, in realtà credo che sappiamo tutti, no, che i fumetti di Disney sono fatti in Italia dagli anni 60, tutte le storie più importanti sono state tutte italiane, e c'erano autori come, che poi hanno continuato a lavorare negli anni 80 fino agli anni 90, come Scarpa, per esempio, ecco, Romano Scarpa, che è stato forse il più grande Disney italiano, ma già negli anni 70 cominciava a disegnare Cavazzano, cioè stavano venendo fuori una quantità di autori anche in Topolino notevoli. Il problema è che poi, mi pare, a metà degli anni 80, la Disney ha tolto alla Mondadori i diritti di Topolino, ha cominciato a pubblicarseli da sé con la Disney italiana e ha cominciato a mettere una serie di paletti pazzeschi, per cui Gamba di Legno non poteva più fumare il sigaro perché il sigaro fa male, Topolino non poteva più prendere una pistola nemmeno per difendersi, Topolino, Pippo, Paperino, eccetera, non potevano più andare a pescare perché facevano male gli animali. Cioè sono stati introdotte tutta una serie di perbenismi, di politically correctness o di quello che vuoi, che hanno molto impoverito le storie. Io avevo avuto per le mani tempo fa, ti parlo di fine degli anni 80, la lista delle cose che non si potevano fare in una storia Disney era una cosa impressionante. Senti Alberto, l'ultima domanda e poi ti lascio alle domande di Antonio. Secondo te tutta la produzione multimediale che viene adesso fatta sulla rete da ragazzi che usano flash o prodotti simili può essere considerata un fumetto anche se non è stampabile e fruibile sulla carta? Ma forse non c'è bisogno di considerarlo fumetto, ci sono i fumetti in rete. Ci sono anche persone che in Italia sono riuscite ad affermarsi facendo delle strip che vengono pubblicate solo sulla rete, per esempio ecco Eria Dan, che è un conosciate. Grande Eria Dan, è un grande cioè è un grande disegnatore, ha delle strisce, ecco in Italia la striscia umoristica quotidiana è un genere che è stato sempre un po' così creato perché lo si voleva creare, ma che non nasceva, a differenza degli Stati Uniti, da un'esigenza proprio editoriale, no? Di avere la pagina dei fumetti sul quotidiano e riempirla. Negli anni 70 c'erano, ecco, negli anni 70 c'era una striscia, per esempio, di Massimo Mazzioli, divertentissima, su Paese Sera, che si chiamava Pasquino, quindi di ambientazione molto romana, ed era uno spazzino romano. Massimo Mazzioli che disegnava anche su Pinky, sul giornalino, e che disegnava, avrebbe disegnato poi storie magari eroticamente più spinte per Blu negli anni 80 e negli anni 90, quindi ecco un disegnatore sperimentale ma che faceva anche le strip. Non lo so, forse in alcuni casi si può parlare di fumetto, in altri casi sono animazioni, per cui forse siamo più vicini al cinema d'animazione, magari si mescolano tutte queste cose. Si potrebbe inventare una nuova parola, ma del resto ecco il fumetto, il cinema sono cose simili, in televisione sempre alla fine degli anni 70 c'era un tentativo di mescolare i due linguaggi con Super Gulp, anzi prima con Gulp e poi con vero, Super Gulp, no? Super Gulp. Ecco un'altra icona degli anni 70, Gulp. Guarda, a proposito Alberto, a proposito di grandi vecchi che non muoiono mai, un po' come Diabolik, nati magari negli anni 70 ma che ancora sono tra noi, adesso vorrei far ascoltare i nostri ascoltatori un articolo tratto dal portale pagine70.com dedicato al Super Tele, che è il primo grande feticcio della nostra infanzia negli anni 70. E poi magari dopo parliamo di feticci e anche di cinema, d'accordo? Anche perché per me Super Tele fa pensare a un Super Tele obiettivo, pensa quanto poco ne so di calcio. Quindi parliamo del pallone. Invece. Del pallone, certo. D'accordo. Non c'è giovane nato negli anni 70 che non abbia mai provato l'ebbrezza di tenere uno di questi miti sferici tra le mani. Solitamente venduto dai tabaccai e dai negozi di giocattoli di secondo ordine, il pallone da calcio Super Tele rappresenta il coraggio dell'onestà ed è un meraviglioso trionfo dell'arte di arrangiarsi. Il Super Tele nasce dalla mente di un industriale del giocattolo della Valle Padana nel luglio 1972. L'idea base era quella di ottenere un oggetto in grado di resistere a una pressione di circa 2 atmosfere una volta gonfiato d'aria, sfruttando la minore quantità possibile di materiale. Ciò è stato reso possibile dalle prime applicazioni pratiche di tessuti plastici basati sul nylon, grazie ai quali ci si è potuti spingere fino allo spessore di circa 1,2 mm. Figlio degli anni 70, il Super Tele è stato inizialmente prodotto in tinta unita, ma è presto passato ad un disegno stampato a pentagoni neri, il quale seguiva in maniera rozza ma efficace l'abitudine che si stava consolidando in quegli anni a produrre palloni secondo lo schema degli esagoni bianchi intervallati ai pentagoni neri. I primi palloni con questa caratteristica, infatti, apparvero ai mondiali in Messico 70. Il Super Tele si affermò e dilagò per tutti gli anni 70 e 80 e tuttora viene posto in commercio con lo stesso nome commerciale, presentato al pubblico in una sottile reticella dall'utilità discutibile. Già il nome, Super Tele, è apprezzabilissimo. Associa infatti l'aggettivo super derivato da superiore, che sembrerebbe connotare la migliore qualità del modello al cospetto di un eventuale modello base, al sostantivo tele, che serve ad associare il concetto di pallone a quello di televisione o forse di telecomunicazione in senso lato per sottolinearne la modernità. Come è facile intuire, il supertele non è una versione migliorata di un modello tele normale, anche perché per fare di qualcosa di peggiore ci si sarebbe dovuti impegnare davvero a fondo. La sfera è quasi sempre stampata in modo approssimativo, con pentagoni disegnati in modo casuale su un fondo a tinta unita che rimanda cromaticamente ad un universo di colori fastidiosi e sfacciati come solo negli anni 70 ci si poteva permettere. Allora, Daniela, tu col Supertele non ci hai mai giocato? No, ma tu oggi stai infierendo, no? Capito? Prima la sigla sportiva, adesso il pallone, il telepallone, ma dai! Ma sarà che la Roma gioca ogni 3 giorni, esatto, c'è però il pallone sempre in testa. Alberto, sei ancora lì? Sì, sono qui, stavo ascoltando la cosa, infatti. Beh, poi sentire... Ho sentito pochissimo, perché io veramente di palloni proprio... Ma no, ma tu sei qui per i fumetti e per il cinema. Infatti vorrei chiederti subito una cosa a proposito del cinema. Negli anni 70 era proprio completamente diverso il modo di fruire il cinema nelle sale. C'era quel poco di cinema che si vedeva in televisione. È cambiato proprio anche dal punto di vista del costume del nostro paese. Beh, decisamente, sì. Gli anni 70 sono stati gli anni in cui si parlava di crisi, come si parlava di crisi negli anni 60, negli anni 50, negli anni 40 e negli anni 30, e come si parla di crisi adesso da 30 anni praticamente. Il cinema italiano è sempre stato in crisi. Detto questo, però, negli anni 70 è stato il momento in cui davvero hanno cominciato a sparire gli spettatori. Se tu vai a vedere gli incassi della metà degli anni 70, vedi che più o meno alla fine della stagione tra cinema italiano e cinema americano eravamo abbastanza 50-50. Metti che il cinema italiano avesse, adesso non mi ricordo se il 52%, gli americani il 48% o viceversa, ma insomma stavamo abbastanza da queste parti. Invece se poi vai a vedere salti avanti di 10 anni, ecco, diciamo a metà degli anni 80, vediamo che il cinema italiano rimane tipo il 20%, e gli americani si pappano tipo il 65%, e il resto poi si spippola con altre, così, gli inglesi, che poi in genere sono spesso film americani. Per cui c'è stato sicuramente una fuga degli spettatori. E allora lì un punto è un po' capire perché se ne discute ancora adesso, figurati, cioè si va prima a decidere del sesso degli angeli che del motivo per cui il cinema italiano poi ha perso spettatori, no? Un po' è morto prima l'uovo o la gallina. Forse sono morti insieme. Di fatto la gente ha smesso di andare al cinema, ci sono, ecco, interviste di Fellini verso la fine degli anni 70 che diceva: mi sono passato un pomeriggio in giro per le sale di Roma, sono entrato in una dopo l'altra ed erano tutte vuote, cioè c'erano qualche volta 6 o 7 persone, 10 persone, poi ogni tanto beccavi la sala in cui andava un sacco di gente a vedere quel singolo film. E si accalcava, anche perché era più difficile, non c'erano i parcheggi che ci sono nei grandi multisala di oggi, non c'erano i 20 minuti di latenza, poi c'era questo caos dettato dal fatto che si poteva entrare e uscire in qualsiasi momento, che è una cosa che molti rimpiangono, Alberto. Tu dico, guarda, sembra uno snobismo, ma io, ecco, uno dei miei ricordi, dei primi ricordi di spettatore cinematografico, quindi parlo di metà degli anni 70, sono i film visti ai cinemini parrocchiali, entrando quando si arrivava. Il Vangelo secondo Matteo. E con le sedioline di legno. Con le sedioline di legno, in genere, beh, diciamo che a quell'età io più che Vangelo secondo Matteo andavo a vedere i film di Disney, però si entrava, non si capiva niente per un quarto d'ora della storia, poi capivi cosa succedeva e la storia finiva, dopodiché ti rivedevi l'inizio e poi si trattava di cercare di restare 5 minuti, 10 minuti in più, rivedendo il più possibile di quello che avevi visto prima, no? E questa è un po' una delle esperienze che si sono perse. Da un certo punto di vista molto meglio, perché adesso un film lo vedi dall'inizio alla fine, quindi così come è stato concepito. Però sì, è vero, è cambiata l'esperienza, soprattutto mi sembra che quello che si è perso sia soprattutto l'idea di andare a vedere, andare al cinema o andare a vedere un film. Cioè, una cosa che si faceva era si va e si vede quello che c'è. Adesso tu esci per vedere quel singolo film, sia perché magari ne è uscito uno che è particolarmente interessante, sia perché magari te l'hanno pompato come certo, pubblicità. Certo. C'è un po' meno scelta, cioè alla fine ogni weekend esce uno o due film che veramente prendi in considerazione nel caso tu decida di andare al cinema, no? Un tempo un po' era, vabbè, che facciamo? Andiamo al cinema. Si andava lì, si vedeva cosa c'era e si vedeva un po' di tutto. Vabbè, perché mancava l'alternativa della televisione, che invece adesso... Adesso cannibalizza. Perché... Sì, ma quello è indubitabile. Cioè, il punto è che nel momento in cui tu sei a casa e hai da scegliere tra prima uno, poi due, poi cinque, poi dieci, poi cento canali, insomma, diventa difficile uscire a vedere qualsiasi cosa. Il qualsiasi cosa te lo vedi in televisione, quindi esci a vedere quel il film, film, esatto, che davvero ti interessa. Ecco, allora, Alberto, scusa, magari è una mia impressione, però ti assicuro, è condivisa con molti coetanei con cui mi sono sentito in questi giorni. Se oggi vedo un film magari italiano degli anni 70, se lo vedo a 30-35 anni di distanza, io ho quasi la sensazione che la qualità complessiva dell'immagine sia peggiore rispetto ai film del decennio precedente, gli anni 60. Secondo te questa impressione, che magari è sbagliata, a cosa è dovuta? È un problema di percezione? Guarda, non è facilissimo da dire. Io non sono tanto d'accordo. Sto cercando di capire da dove nasce questa percezione, perché se c'è, se è condiviso, evidentemente un motivo ci deve essere. Negli anni 60, secondo me, c'era ancora tanto cinema in bianco e nero. Certo. Non c'era tantissimo. Meno difficoltà tecniche forse negli anni 60. Secondo me negli anni 70 ha dilagato di più il colore su qualsiasi tipo di film, perché se tu vai a vedere certi filmetti così veramente di serie B degli anni 60, certi, so, io ho visto un paio di Musicarelli con Mina o cose di quel genere, hanno dei colori che veramente sembrano del secolo scorso, a parte la battuta, no, sono veramente sbiaditi, sono poveri visivamente in realtà. Credo che, allora, da un lato forse ancora erano dei colori, non bisognerebbe veramente sapere che tipo di pellicole utilizzavano, non credo che ci fosse già più Technicolor. C'erano delle pellicole, mi si diceva, che costavano meno e che quindi si privilegiavano. Certo. Adesso non vorrei citare marche perché poi non sono sicurissimo di non così diffamare qualcuno, però so che c'erano, insomma, si erano diffuse a un certo punto delle pellicole a colori che non erano proprio il massimo. Però negli anni 60 c'era ancora tanto bianco e nero, tantissimo cinema d'autore o commerciale era girato in bianco e nero. Negli anni 70 praticamente non ce n'erano più, cioè anzi credo veramente che si possano contare sulle dita di una mano, ecco, i film girati. Era una scelta precisa, narrativa, forse. Considera che il bianco e nero tiene molto di più, perché se tu vedi un vecchio film in bianco e nero ti sembra girato ieri. Ecco. Se tu vedi un film a colori girato 20 anni fa, già ti sembra vecchissimo. Ecco, cambiano questa può essere una spiegazione. Può essere soprattutto per questo motivo. Senso. Poi diciamo anche che magari vediamo più film degli anni 70 e meno degli anni 60, perché poi la serie B è quella che più svanisce nell'interesse, che viene meno riproposta, quindi probabilmente vediamo magari 10 film anni 70 e uno anni 60, e quello anni 60 che vediamo è quello che magari era tecnicamente un po' migliore. Ecco, Alberto, io adesso provo ad approdare un po' nel vero tema della trasmissione. Negli anni 60, semplificando al massimo, si può dire che i contenuti mediatici prodotti cercavano di trasmettere spensieratezza. Il cinema forse anche lo faceva, in Italia intendo. Poi c'è stato il buco degli anni 70 che stiamo cercando di riempire. Negli anni 80 una fase, diciamo, di edonismo, anche reganiano, come diceva D'Agostino. Negli anni 90 la grande disillusione, ma per definire un tratto comune nel cinema degli anni 70 non è facile. Si può parlare di acquisita consapevolezza, di scontro generazionale, oppure, come io personalmente credo, di una sorta di atterraggio brusco, forse immaturo, in ciò che prima era proibito. Ma credo, come sempre, non esista una risposta così a ricetta, no? Ci saranno sicuramente più cose che si possono mescolare. Diciamo che gli anni 60 proprio spensieratezza completa magari non c'era, perché se vai a vedere i film dei grandi autori di quel periodo, i vari, cioè da 8 e mezzo di Fellini a Rocchi e Suoi Fratelli, La Dolce Vita, i film di Antonioni, cioè non... Ma tu stai parlando del grande cinema, del grande... Certo, sì, naturalmente, questo sicuramente. Negli anni 70, allora, se parliamo più del cinema commerciale, c'è an- anche lì un certo vitalismo magari pecoreccio, che è quello che nasce dall'esplosione dei Decameroni, ad esempio. Sì. Allora, gli anni 70 ancora più che gli anni 60, no, più degli anni 60 no, perché gli anni 60 sono gli anni del western all'italiana. Una volta esaurito il filone del western, che comunque spinge anche un po' sui primi anni degli anni 70, negli anni 70 esplodono altri sottogeneri, no? Allora, uno è quello dei Decameroni, là il buon Pasolini fa il suo Decamerone, che ha un successo straordinario per un film d'autore, un film che va benissimo, fa un sacco di soldi, e quindi ne escono veramente, non so neanche a cominciare a farti l'elenco, ma cioè decine e decine e decine, tutti non proprio eccellenti, ecco. Diciamo che dal western erano nati alcune cose un po' più interessanti dei famosi decamerotici. Parallelamente c'è il filone del cosiddetto poliziottesco, ma anche lì da dove nasce? È uscito nel 74 il poliziotto, come si chiama? Da una ricerca di sicurezza diffusa dopo i tremori a cavallo degli anni 60-70, il terrorismo? Sì, il terrorismo si stava sicuramente affacciando, però al cinema si affaccia abbastanza tardi, se ne parla poco volentieri. Cioè, se ne parla adesso, ultimamente, stanno facendo tanti film che prendono fatti accaduti negli anni 70. Se ne parla dopo 20 anni della cronaca, esatto, italiana. Sì, perché poi un po' è lontano, se ne parla, adesso è vero, sì, dalla meglio gioventù. C'è anche la metabolizzazione ideologica forse è necessaria, no? Per essere però in una giusta distanza rispetto ad eventi che raccontati a caldo potrebbero denotare una posizione politica preconcetta. C'è anche questa paura forse, no? Sì, diciamo che allora agli anni 70 poi posizioni politiche si esprimevano abbastanza facilmente, si radicalizzavano abbastanza, cioè ecco, se c'è un fenomeno nel cinema italiano degli anni 70 è il cosiddetto cinema politico, adesso non mi ricordo la data precisa del Cittadino al di sopra di ogni sospetto, ma il periodo più o meno è quello, cioè di film che al di là dei film d'autore che citavamo prima, Fellini, Visconti, Antonioni eccetera, andavano anche un po' a raccontare i rapporti con le istituzioni, no? Cioè Visconti ha un'ambizione magari melodrammatico-sociologica con Rocchi e i suoi fratelli, Fellini racconta Fellini, quindi racconta magari i suoi fantasmi, eccetera, eccetera. Antonioni ti racconta la borghesia, Petri comincia a raccontarti che cosa sta succedendo, in che modo si sta cristallizzando un certo tipo di potere, come si struttura e come si gestisce. Cioè L'indagine sul cittadino è un film veramente, ecco, a chi spetta una villa sulla Camilluccia? Quel film dice anche a chi spetta una villa sulla Camilluccia in quegli anni, no? Tutto ecco, sommato. Ma è un film che non è invecchiato a livello di tema, ma non è neanche invecchiato visivamente, mi sembra, cioè che era fatto bene, aveva una buona fotografia, era curato, non ho l'impressione che sia un film visivamente invecchiato. È un periodo degli anni 70 in cui da un lato c'è un impegno politico non sempre poi lucido, magari anche un po' velleitario, insomma il 68 è di 2 anni prima, nel 1970, no? Per cui c'è anche tutto un cinema italiano che tenta di saltare sul carro della contestazione con dei titoli veramente anche bizzarri, ispirati a Marcuse, vagamente psichedelici. Ci sono un sacco di cose che per esempio oggi noi non vediamo più, cioè se non si va alle rassegne che fanno per esempio lì a Roma alla Sala Trevi, sono film che sono completamente scomparsi perché sono molto legati al momento politico e sociologico di quel periodo. E poi parallelamente appunto ci sono ancora i generi, cioè c'è ancora Poliziotto, Marchi il poliziotto spara per primo, Poliziotto solitudine rabbia, per cui quello è un genere, il genere dei Decameroni. E il western, perché non me lo stai nominando il western? Perché il western negli anni 70 comincia un po' a calare, esiste ancora qualche cosa, c'è ancora Leone, però Leone si sta stufando, cioè Leone ormai cosa fa? Giù la testa, che già non so se sia ancora forse fine degli anni 60, 70, potrebbe essere primissimi anni 70, e poi smette praticamente di dirigere. Leone poi non dirige più niente fino a C'era una volta in America, si mette a fare il produttore, e allora produce un film in cui si parla anche del rapporto del cittadino con le armi, cioè il giocattolo di Giuliano Montaldo, produce Verdone. Produce una serie di film, produce cosa c'è? Il mio nome è Nessuno, ecco, certo. Che, di cui dirige alcune scene, però si sta un po' defilando, perché il western sta un po' finendo, forse anche un po' paura di, che ne so, di affondare con un western, cerca di scendere dal carro che lui stesso ha avviato prima possibile. Negli anni 70 il western diventa Trinità, cioè diventa la parodia del western. Trinità in qualche modo prende i dati, gli elementi ironici che i film di Leone già avevano e li fa esplodere proprio nella comicità esplicita, nel mangiate di fagioli con conseguenti emissioni sonore e aeree, certo. Vabbè, insomma, potevo farcelo prima dire la parola, ma insomma siamo in fascia protetta. È un altro tipo di cosa, no? Si va sulla commedia e a quel punto, tra l'altro, Trinità poi è una cosa abbastanza nuova per l'Italia, no? C'è questo umorismo da fumetto applicato poi appunto al western che già era demitizzato, questo antieroismo. Ecco, in Italia passa negli anni 70 il periodo in cui vengono fuori degli eroi quasi credibili, cioè il cittadino, il poliziotto, il magistrato, ecco, ci sono tutti i film di Damiani, no? Sulla magistratura, per esempio, acquistano ci sono dei personaggi che acquistano uno status eroico che nel cinema italiano è abbastanza raro incontrare. Ancora legato all'istituzione che rappresentano, forse. Legato, esattamente, sì. In Italia è difficile avere degli eroi legati alle istituzioni, no? Cioè, c'eravamo abbastanza sputtanati il concetto di autorità nel famoso ventennio per poterci credere ancora. Per cui, nel momento in cui vengono fuori questi personaggi, beh, insomma, è un dato interessante che dura poco poi, però, perché forse anche col terrorismo diventa... non si capisce davvero più niente, non si capisce più chi sono i buoni, chi sono i cattivi, se il poliziotto è buono oppure se è un fascista, cioè, insomma, si complicano un po' le cose. Verso la fine degli anni 70 semplicemente il mercato scompare. Se andiamo a vedere ancora nel decennio successivo, c'è proprio gli ultimi fuochi, gli ultimi sottogeneri, le imitazioni dei barbari tipo Fuga da New York, qualche zombie, qualche Conan, però non c'è più niente, non c'è più l'industria. Ecco, gli anni 70 sono l'ultimo anno in cui esiste, sono l'ultimo decennio in cui esiste ancora un'industria del cinema italiano che produce tanta roba in cui ovviamente, come sempre, c'è un'alta percentuale di spazzatura, ma anche tanta roba interessante. Va bene, Alberto, io credo che con te abbiamo fatto un salutare tuffo in un cinema ormai un po' distante. Noi adesso ci sentiamo, credo, un brano musicale e poi proviamo a parlare qui in studio anche con Daniela degli aspetti tecnici di un portale che affonda le radici nel passato. Grazie, Alberto. Allora, io vi ringrazio, mi taccio e mi metto ad ascoltarvi. Grazie, ciao ciao. Allora, Daniela, sulle note dei Return to Forever, che è una band di culto degli anni 70, un sound veramente molto acido con Stanley Clark. Ma tu questa musica la ascoltavi negli anni 70 o l'hai rivalutata dopo? Perché io negli anni 70 ascoltavo, che so, The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, anche perché me l'hanno regalato per il mio compleanno, oppure Mia Martini, Renato Zero, i Sex Pistols. Ascoltavi delle cose un po' più da bambino, perché questa roba, possiamo chiamare da bambino. nei Sex Pistols, questo non lo so, non saprei dire. Beh, c'è anche Rimmel di Francesco De Gregori, Breakfast in America dei Supertramp, te lo ricordi, no? Come no? Tubular Bells, questa monumentale sinfonia. Sì, però erano cose tranquille, cioè qui mi passi un brano rocchettarissimo, io dico, tu non puoi a 10 anni ascoltare questa musica. Senti, comunque parliamo di feticci, perché questo, cioè, se vai a vedere questo portale, le cose più carine sono gli articoli su, che so, la radio Cubo Brion Vega, quella rossa che aprivi, esatto, bellissima, la TV al gol, che esatto, c'era un problema a quei tempi, bisognava fare, se facevi una TV piccola dovevi fare comunque il cinescopio, e allora hanno trovato questa soluzione di design incredibile, questo oggetto che sembra un oggetto fittizio, no? questa televisione tutta oblunga e strana con due code. E vogliamo parlare della poltrona a sacco, quella di Fantozzi. Ma tu l'hai mai avuta la poltrona a sacco? Certo, stai scherzando? Finivi a testa in giù come Paolo Villaggio? Ma finivi nelle posizioni più assurde con quella poltrona. Io ho avuto una Fiat Ritmo, o meglio, mio padre aveva una Fiat Ritmo, che è una macchina squadratissima, che allora sembrava una macchina spaziale per andare sulla Luna, no? Certo. Con tutta questa cosa di plastica sotto, se la guardi adesso... È una cosa orribile. Cioè... Se vedi ora la 500 sembra una macchina moderna, se vedi ora la Fiat Ritmo dici, ma che roba è questa? Beh, certo. Incredibile. Allora, andando su questo portale, lo dico ancora una volta l'indirizzo perché è molto carino, pagine70.com, ci sono anche degli articoli che sembrano articoli, come dire, leggeri, come quello su lo sbarco della televisione a colori, ma in realtà rivelano delle cose importanti sulla società di quegli anni. Pensa che in Italia la TV a colori, lanciata con queste prove tecniche di trasmissione, c'è un articolo che descrive, no, queste signore che fanno vedere i veli colorati con questi questi notturni di Chopin, no? I primi filmati, le prime riprese a colori mandate in onda dalla TV italiana. Ebbene, da noi è sbarcata tardi, nel 76. Perché? Non perché non esistesse la tecnologia, perché insomma in Inghilterra già negli anni 60, negli Stati Uniti non ne parliamo, con il NTSC dagli anni 40, no, semplicemente perché il primo tentativo che fu fatto a cavallo tra gli anni 60 e 70, a un certo punto si alzò il ministro del tesoro di allora e disse: se tutti gli italiani comprano la TV a colori che costa un sacco di soldi, vanno tutti in rovina. Se ci pensi, è esattamente la logica opposta di quella che usiamo adesso, rispetto a quella con cui oggi si promuove la TV ad alta definizione. L'obiettivo è far comprare a tutti oggi i televisori HD ready. Ma hai sentito che e nella poi dopo ci saranno i full HD, poi nella finanziaria adesso ci sono gli incentivi per l'alta definizione. Cioè, una volta c'era lo stato mamma che diceva: sappiamo noi che cosa devono comprare gli italiani per evitare che loro finiscano in rovina. Ora invece lo stato promuove l'italiano che deve firmare le cambiali, o deve comprare a rate, o diventa protestato. Incredibile. Cioè, vedi com'è cambiata l'Italia, e si capisce anche da queste piccole cose. Una curiosità sulla quale però non ho trovato risposta nel portale: ma secondo te i contenuti sono scritti da appassionati, da persone comuni, o da persone che hanno... Io lo volevo chiedere a Giuseppe Grimani. Mi sono fatto un'idea guardando il portale. C'è una sorta di rete di collaboratori, tutti appassionati del genere, che hanno scritto proprio gli articoli. Poi c'è un grande forum dove invece delle persone casualmente, no, lanciano dei nuovi spunti, e quindi si ingrandisce sempre di più la comunità. Cioè, il problema è la referenzialità cioè, capisci? Internet, certo, ha questo rischio. Quindi la mia domanda è: ma chi scrive su questo sito ha competenze sufficienti? Allora, io leggendo gli articoli ti assicuro che è molto meglio leggere gli articoli di questo portale che qualche articolo rivocativo che si trova magari su un quotidiano, no? Okay. Intanto tirano fuori, no, per riempire una pagina, un magazine in mezzo all'estate, no? Tirano fuori gli articoli che in realtà le redazioni hanno già pronto, no? da 3-4 mesi per coprire un buco. Magari per non far scrivere uno stagista può essere una soluzione. Però io penso che non vi sia veramente nulla da invidiare nella lettura di questi pezzi, proprio perché è un collage di emozioni, di memorie. E devo dire che il ruolo di internet in tutto questo, nel recupero della produzione mediatica di riflusso, è importante, perché va di pari passo con la cosiddetta coda lunga. con YouTube, no? I video degli anni 70 sono stati ripescati in massa. Certo. Cioè, e questo vuol dire che in qualche modo quello che prima era introvabile nel mass market, nel mainstream media, su internet trova una sua dignità, e questo al di fuori di tutti quei discorsi che facciamo noi sul web 2.0, le logiche di business. No, semplicemente chi vuole andare su internet trova quello che cerca. Se sta cercando un ricordo personale, qualcuno che condivide questo ricordo lo trova. Io per esempio, ecco, prima abbiamo sentito la voce splendida di uno degli autori di questi articoli, che si è prestato quasi con la sua voce recitante nel leggerlo. Lui si chiama Alvise Marinetti ed è, forse qualcuno lo conoscerà, il demiurgo del caffè nichilismo, un programma radiofonico di un'altra web radio, che contribuisce a questo portale con i suoi ricordi. Adesso, anzi, tra poco sentiremo la seconda parte del pezzo sul Supertele. Che la dicitura Supertele è riportata spesso sulla sfera la frase Made in Italy, che fa abbastanza disonore al nostro sistema industriale, anche se proprio per questo il pallone è comunque apprezzato dalle organizzazioni non governative impegnate nella lotta contro lo sfruttamento del mondo minorile nei paesi del terzo mondo. Rassicura il fatto che nessun bambino venga schiavizzato per cucire il manufatto, visto che lo stesso non presenta cuciture. In alcuni modelli tardi è stata addirittura aggiunta la scritta rigonfiabile, insultiva, a causa del fatto che non è mai esistito a memoria d'uomo un supertele che si sia sgonfiato per cause naturali. E non è mai esistito in natura un essere umano che abbia perso tempo a rigonfiare una cosa il cui costo era di poche lire superiore a quello dell'aria in esso intrappolata. Il supertele aveva dal canto suo un costo irrisorio, che lo faceva amare sia da chi non pretendeva un buon prodotto, sia da chi, pur potendo permettersi un pallone migliore, non voleva rovinare una buona sfera in partite di scarso valore, optando su qualcosa di più entry level. E veramente il supertele è qualcosa di entry level, pur essendo nato in un'epoca il cui entry level era un termine assolutamente insensato. Il suo terreno naturale è infatti stato sempre quello dei campetti di periferia, in cui mandrie intere di bambini e ragazzi si sfiatavano per pomeriggi su partite di valore effettivo nullo, ma di altissimo valore simbolico. Le madri preferivano i supertele perché eminentemente economici e perché, dall'alto della loro naturale apprensione per le gesta di pargoli, erano sicure che una pallonata in faccia di supertele non avrebbe fatto male a nessuno. E avevano ragione. Il supertele dominò per tempo anche tutte quelle sedi di gioco come i marciapiedi e le spiagge, in cui la presenza di altri individui estranei al gioco rendeva inadatto il ricorso ad un pallone più duro. Sulle spiagge però è ormai sparito a causa del dilagare di mode fintamente moderne come quella del fitness e quella del beach volley, per tacere del beach tennis, e qualsiasi utente di supertele chiamerebbe popolarmente racchettoni, indignando i fighetti. Ad ogni modo, la sua gestibilità, il livello di palleggio, la stabilità aerodinamica sono tutte inesistenti, ed intuire una traiettoria di un supertele scaraventato in avanti era praticamente impossibile, a causa dell'impossibilità nel risolvere questi complessi problemi di fluidodinamica con le risorse di calcolo dell'epoca. Nel gioco a terra, invece, si rivelava scadente, ma non tragicamente pessimo. Tendeva però a graffiarsi facilmente se sollecitato da attriti e si bucava con nulla, ossia, per dirlo con una frase dell'epoca, si tagliava con un grissino. E da qui la brevissima vita di questo tipo di sfere. Ma non per questo noi oggi dimentichiamo il supertele, amico dei bambini, dei giovani, dei cazzari che a tutt'oggi sono presi dalla voglia di tirare due calci un pomeriggio d'estate, idolo delle mamme avare, dei nonni costretti a comprare sempre qualcosa ai nipotini, dei papà che odiano l'idea di buttare soldi in un pallone di cuoio sapendo che il figlio tanto lo perderà comunque. È sopravvissuto all'invenzione di materie sintetiche migliori, agli anni delle console di videogiochi, agli anni della consapevolezza e ai terribili anni 90, alla scomparsa del senso aggregativo della gioventù d'oggi, agli anni del glamour e a quelli del minimal chic. Penso che ne avremo ancora per molto. Non stupirti se il mago ti piace così tanto. Il trucco c'è. Il trucco c'è. Si chiama passione. Malvise, è grande. Allora, guarda, è stato un favore che lui mi ha fatto, quello di prestarsi per leggere con la sua voce di Demiurgo, della sua radio, un pezzo, un articolo, secondo me, assolutamente geniale. Geniale. 19.53, insomma, in qualche modo siamo approdati alla fine anche di questa trasmissione. Non c'era tempo per la rubrica Guru Meditation, che peraltro ripartirà nelle prossime puntate, perché svolgeremo delle interviste in esterno, ci sono parecchi barcamp, occasioni importanti per fermare qualche importante personaggio del web 2.0. c'è il Venture Camp dedicato al Venture Capital proprio qui a Roma, soprattutto le difficoltà del Venture Capital in Italia, organizzato da Fabio Masetti, che ben conosciamo. Ci sarà l'Art Biz Camp, ci sono molti appuntamenti, quindi immagino molto materiale per Guru Meditation. Perfetto. E niente, io a questo punto, Daniela, normalmente in fine di trasmissione ti chiedo sempre di dirmi quello che sta succedendo su Second Life. A parte il fatto che io non riesco ad entrare in Second Life, ma penso che sia l'ennesima maledizione, la macumba, che peraltro si è spostata dallo studio di questa radio a Second Life, per quanto mi riguarda è solo un bene. E che cosa sta facendo in questo momento Radio Mago? In questo momento stiamo costruendo la nuova isola. Perché dopo un mese di attività su Second Life ci siamo resi conto che eravamo stretti, già stretti. Ecco. Quindi c'è una marea di gente che balla, animazione, spettacolo. Sì, sì, sì, sì, ogni succede sera. La sera, la notte. Succede la notte, sì, sì, sì, okay. Qui la notte. Durante il giorno siamo fruibili su Second Life. E quando dormi tu, Daniela, no? Così per così? Non vedi che faccina che ho? Va bene, lo so io quando dormo, quando c'è Fiorentina Roma, che infatti non hai saputo commentare. No, non ho potuto, mi sono addormentata. Lo ammetto. Va bene, noi ringraziamo tutti per l'ascolto, ci sentiamo giovedì prossimo. A presto. Radio Imago ha presentato Proxy Bar di Antonio Pavolini e Daniela Apollonio.